676. Zuppa tartara. Prendete grammi 200 di ricotta, rammorbiditela alquanto col latte e aggrassiatela con grammi 30 di zucchero a velo e 2 prese di cannella in polvere mescolando bene. Prendete uno stampo lavorato e bagnate nelle pareti interne con rosolio oppure ungetele col burro. Intingete nel rosolio o nell'alchermes dei Savoiardi e cominciando da questi o dalla conserva di frutta non troppo liquida, coprite il fondo dello stampo, poi riempitelo alternando a suoli con la ricotta, i Savoiardi e la conserva, che può essere di albicocche o di pesche. Sformatela dopo qualche ora e se l'avrete disposta con garbo, oltre al gusto, resteranno anche appagati gli occhi dei commensali. La ricotta si può rammorbidire col rosolio di cedro invece del latte e allora non occorre la cannella. È un dolce da piacer molto.